Letture di Radio 24. Il cheerleading, l'arte di fare il tifo attraverso danze e coreografie, nasce negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento e oggi, con oltre 1 milione di partecipanti, è uno degli sport più praticati oltreoceano. Ora anche nelle scuole italiane stanno per debuttare i corsi per diventare cheerleaders, ma non tutti mostrano entusiasmo. Non chiamate le ragazze pompon, per favore, perché loro sostengono di essere tutt'altro. Si chiamano cheerleaders. Sono le squadre che, sull'onda di quanto avviene negli Stati Uniti, guidano il tifo, lo stimolano, lo incitano con numeri di danza e sport acrobatico. Uno sport, insomma, con una vera federazione affiliata al CONI, che sta per sbarcare in 700 scuole italiane, ma che sta scatenando polemiche e malumori. Ne sanno qualcosa a Bologna, dove il comune ha deciso di offrire agli studenti delle superiori corsi gratuiti di diversi sport meno conosciuti e presenti sui media, fra cui per l'appunto il cheerleading. L'idea è stata presentata dal comune come un modo per salvare almeno le attività sportive dai drastici tagli di fondi alle scuole e per offrire uno sport che non provochi ansia da prestazione agonistica e rispondere al bisogno di muoversi in gruppo proprio dell'adolescenza. È stata accolta da una letteraccia firmata da un gruppo molto attivo che risponde al nome di Donne Pensanti, che ha provocato una valanga di proteste in rete e un bel problema per il comune di Bologna. Nelle scuole italiane mancano sedie, banchi, rotoli di carta igienica, ore di sostegno per i bambini disabili e poi. L'Italia è il paese europeo in cui le donne sono maggiormente relegate a bordo campo in politica, in televisione e nel contesto professionale. Siamo sicuri che promuovere un corso da cheerleader non possa contribuire a mantenere granitico il modello femminile che viene proposto da ogni parte? E quindi concludono. Ne avevamo davvero bisogno? Questo è uno sport che diverte, genuino e in cui esiste un fortissimo senso di squadra. Non richiede che le ragazze siano belle o brutte, prevede soltanto che tutte insieme portino il sorriso, la gioia e compongano figure più o meno difficili a seconda che facciano parte di team di cheer dance o di cheer acrobatico, spiega Riccardo Cavalieri, presidente della Federazione Italiana Cheerleading. Ma soprattutto, ricorda, proprio come negli Stati Uniti, è un vero e proprio sport che racchiude ginnastica artistica e ritmica, danza, coreografia, teatralità. Siamo iscritti al CONI e possiamo contare su uno staff tecnico di atlete ai massimi livelli e nelle scuole c'è bisogno di un'alternativa alla pallavolo che in genere viene proposta alle ragazze, spiega. La federazione è nata poco meno di un anno fa, il 18 dicembre del 2009, e punta in alto. Ha partecipato ai mondiali di volley di settembre e ottobre e al moto mondiale del Mugello di giugno, agli internazionali di baseball e sta per stringere un accordo con una squadra di calcio di Serie A e una di Serie B. Ma il cuore della sua strategia di diffusione sono i progetti nelle scuole, dalle elementari all'università, con l'obiettivo di creare squadre in 700 istituti in tutta Italia entro il 2012. Il costo effettivo di questa operazione è uno dei nodi della polemica sulle cheerleader, visto che si parla di scuole dove in teoria non esistono fondi nemmeno per pagare le supplenze. In un anno scolastico le settimane di lezione sono circa 30, la spesa potrebbe essere di circa 900 euro a scuola. La petizione di Donne Pensanti ha ottenuto più di 200 firme di sottoscrizione in 4 giorni. Quante adesioni otterranno i corsi da cheerleader nelle scuole? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Flavia Amabile «Anche le cheerleaders andranno a scuola» dalla stampa del 18 ottobre. Letture di Radio 24. Tanto rumore per nulla. Dopo le ultime elezioni amministrative, Mercedes Bresso non accetta di aver perso la poltrona di governatore del Piemonte per pochi voti e chiede un riconteggio delle schede. Quando si profila una riduzione dei voti per Roberto Cota, la Lega minaccia di scendere in piazza. Ma è bastato un ricorso al Consiglio di Stato per risolvere il problema. Per evitare il ripetersi di episodi simili che rischiano di bloccare la politica per diversi mesi, forse basterebbero un po' di rispetto reciproco e l'osservanza delle regole, come sottolinea Aldo Cazzullo nel suo editoriale sul Corriere della Sera. Si gridava al golpe. Era solo una sentenza del TAR. Si invocava la mobilitazione popolare. Milioni di padani pronti a scendere nelle piazze. È bastato un ricorso al Consiglio di Stato. C'è un giudice a Torino, anzi a Roma, ed è disposto a dare ragione alla Lega. La commedia piemontese non è finita, ma il centrosinistra intanto è chiamato a prendere atto che le ragioni del centrodestra non erano manifestamente infondate. E Roberto Cota non è un usurpatore che sta governando il Piemonte in luogo di Mercedes Bresso. mentre la Lega deve constatare che la magistratura non è prevenuta nei suoi confronti e i meccanismi dello Stato di diritto saranno forse anchilosati, ma ancora funzionano. Il Consiglio di Stato ha bloccato il riconteggio delle schede, avviato dal TAR. La sentenza non chiude la questione, ma rappresenta comunque un elemento di chiarezza. Gli strepiti da ambo le parti dovrebbero calmarsi. Gli allarmi per il presunto vulnus alla democrazia possono rientrare. Le querelle elettorali accadono. È successo negli Stati Uniti, che hanno da un paio di secoli il sistema più semplice del mondo, l'uninominale a turno unico. Figurarsi se non può succedere in Italia, patria del diritto ma anche del cavillo, dove vigono 5 leggi elettorali diverse. L'importante è che le parti si affidino al giudizio degli organismi competenti, senza gridare preventivamente al torto subito, senza reagire in modo stizzito se le proprie ragioni vengono messe in discussione. Da 16 anni i due poli del bipolarismo italiano negano reciprocamente la legittimità altrui. Berlusconi non ha mai riconosciuto una sconfitta e ha parlato di brogli sia nel 96 che nel 2006. A sinistra si continua a invocare la sua ineleggibilità, come se si potesse mettere fuori legge un partito da 13 milioni di voti. Almeno a livello amministrativo, dove il leader è eletto direttamente e la politica è più vicina ai cittadini, il rispetto reciproco e l'osservanza delle regole dovrebbero essere le premesse di qualsiasi duello, politico o giudiziario che sia. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Cazzullo, La commedia delle grida inutili, dal Corriere della Sera del 20 ottobre. Il riconteggio delle schede è costato più di 500.000 di euro. E adesso chi paga? Si domanda la Lega. E ora l'Abresso paghi le spese del riconteggio. A chiederlo sono stati due parlamentari della Lega Nord, Rossana Boldi e Gianluca Buonanno, e il consigliere regionale del PDL, Gianluca Vignale. C'era da aspettarselo. Per 3 mesi in Piemonte non si è parlato d'altro. Chi deve accollarsi le spese del riconteggio? Chi pagherà? La contorta sentenza del TAR, che da un lato annullava 2 liste del centrodestra e dall'altro predisponeva la titanica verifica, ha impegnato più di una zecca garbugli statale. Non è la prima volta che un tribunale predispone un riconteggio per delle elezioni contestate, ma il controllo voluto dal TAR Piemonte non era come i precedenti, dove bastava prendere atto dei verbali, fare 2 somme e via. I giudici amministrativi hanno chiesto agli 8 tribunali piemontesi, che non hanno mai gradito, di riprendere in mano tutte le schede, spulciarle una a una e scoprire se chi aveva votato per una delle 2 liste eliminate avesse messo una croce solo sul simbolo, voto perso, o avesse indicato anche il candidato presidente Cota, voti salvi per il governatore. Quanto costa ricontrollare 1.894.825 schede? Un'enormità. È come se la macchina elettorale, che alle ultime regionali è costata 24 milioni di euro, si dovesse rimettere in moto. Non stupisce dunque se la sentenza del 16 luglio ha trovato una prima applicazione solo al Tribunale di Asti l'8 settembre. In mezzo un'estate rovente, con il centro-sinistra e il centro-destra che si rimpallavano le spese per la verifica e gli uffici giudiziari che non partivano per mancanza di fondi. Il Tribunale di Torino, quello con maggiori difficoltà, dovendo controllare la metà degli scatoloni di tutto il Piemonte, ha scritto a tutti, alla Giunta, al Consiglio regionale, al Ministero della Giustizia, a quello dell'Interno. Una situazione paradossale. Alla fine il TAR ha dovuto convocare un'inusuale udienza con tutti i presidenti dei tribunali, il presidente della Corte d'Appello, i responsabili degli uffici elettorali, i rappresentanti del Consiglio regionale, solo per stabilire chi dovesse pagare. Gli uffici dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Massimo Giordano, hanno calcolato in 450.000 euro i costi dello spoglio bis. Il grosso delle spese se l'è accollato il Ministero della Giustizia, che a settembre ha accordato il pagamento degli straordinari per il personale degli uffici giudiziari e dei giudici. Anche il Ministero dell'Interno è stato chiamato in causa. Pagherà gli straordinari per le prefetture, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, che a Torino ha vigilato sul trasporto e la custodia delle schede. C'era poi da pagare anche il trasporto delle schede. Gli scatoloni erano tutti conservati in un magazzino a Chieri, città alle porte di Torino. I comuni con meno voti da ricontrollare, Asti, Biella, Verbania e Vercelli, si sono arrangiati con le auto municipali. Cuneo ha chiesto 3.000 euro, Novara 80.000. Il maggiore peso economico, ovviamente, l'ha dovuto affrontare Torino. Il comune del sindaco Sergio Chiamparino, del PD, si è rifiutato di anticipare le spese prima di avere garanzie sul rimborso. La stima era di 180.000 euro per il trasloco e la sorveglianza. Infine ci sono i costi del consiglio regionale, custode del magazzino di Chieri. Secondo i funzionari, l'ente ha dovuto anticipare 5.000 euro di spese fisse e 1.300 euro giornaliere per affitto di un muletto, stipendio del suo conducente, addetti alla movimentazione dei plichi, pulizia e sorveglianza. Chi paga? Bresso, sostiene il centrodestra. Ma lei ha sempre replicato: mai chiesto il riconteggio, l'ha predisposto il TAR. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rafael Zanotti, Il conto dello spoglio bis supera il 500.000, dalla stampa del 20 ottobre.